Signor Capo della Polizia, è un grande privilegio parlare alla grande famiglia della Polizia di Stato in occasione della celebrazione del 167° anniversario della vostra fondazione. Ogni giorno, grazie al buon Dio, ho l'onore di lavorare al vostro fianco. Orgoglioso di voi, che siete apprezzati dalla stragrande maggioranza degli italiani, ma comunque bersaglio di volgari attacchi capito? E accuse infamanti da parte di minoranze violente, violente e incivili. Sono onorato da Ministro dell'Interno di poter confermare la volontà del governo di assumere migliaia di nuovi poliziotti. Anche Cucchi, se non mi sbaglio, ci per ora abbiamo stanziato circa 2 miliardi di euro. Oltre alle assunzioni ci sono nuovi strumenti operativi e nuove uniformi. Ma la situazione concreta è che più di 1000 parole dimostra la volontà di valorizzare e rispettare chi indossa una divisa. Buonasera, dai, buonasera! Buonasera, io sono l'Orco Oronzo. Lo sentite? Mi sentite? Ho questa bella voce molto profonda. Ti sentiamo, dai, vero? Grazie, ciao, intanto, buonasera. Molte grazie per questa bella voce che... Non è colpa mia. Come no? Untore, sei tu che porti malattie. Sei sempre malato, porti malattie e le attacchi ai compagni di microfono. Ma i compagni di microfono dovrebbero essere immuni ai miei germi. Sì, effettivamente sono facciamo la trasmissione insieme apposta. Sì. O no? Sì, così sviluppiamo gli anticorpi l'uno verso l'altro. Allora sì, questo è Denver, qua c'è Bricobaldo, abbiamo accanto a noi Gringo. Ciao a tutti. Oh Gringo, buonasera. Il ritorno di Gringo. E poi abbiamo degli ospiti. Abbiamo ospiti oggi. Voci subito, dai, presentatevi. Ciao. Ciao a tutti, io sono... Chi sono? Non lo so. Mi sembra un po' un geco. Io sono un geco. Lasciamo questo alone di mistero per... Sì. Ti si appiglia da tutte le parti quando cade dai roller. Eh sì. Roller, hai detto la parola giusta. La parola roller ci garba. Perché noi usiamo delle bici alternative. Che c'hanno 4 ruote. Che c'hanno 8 ruote. 8 ruote. Volendo 4 per 4, cioè un po' dipende, un po' dallo stile. Però noi tendiamo sempre a togliere perché ci piace soffrire. Minimalisti, perché ora va di moda il minimalismo. Eh sì. Allora puntata... Posso farvi un piccolo intervento così, a gamba tesa? Vai. Vi leggo una cosina. Vedo filosofico. Vi leggo una cosina che ho trovato scartabellando negli archivi di internet. Molto interessante. Molto interessante. Oggi è la giornata dell'archivio, tra l'altro. Dice così: 1890. 2 settembre 1890. Il sindaco Francesco Guicciardini rende noto che la circolazione di velocipedi e manocipedi e velocimani a 2, 3 o più ruote sarà sottoposto a speciali disposizioni. Vi saranno luoghi e strade in cui sarà vietata la circolazione per l'intera giornata o in determinate fasce orarie. Viene reso obbligatorio l'uso di un campanello e di un lampione acceso conforme al modello approvato dall'autorità comunale. E la stessa autorità apporrà su ogni velocipede un numero progressivo. Sarà consentito l'utilizzo del velocipede alle persone che abbiano compiuto 14 anni e tutti i possessori o noleggiatori dovranno farne dichiarazione all'ufficio di polizia municipale. Possesso sarà inoltre sottoposto ad una tassa che varia dal lire 8 al lire 18 in base al tipo di velocipede. Le disposizioni entreranno in vigore dal 1 ottobre 1890, firmato Comune di Firenze, Affari Generali. Ah, questo è quanto. Sempre alla... avanti è stata Firenze. Alla faccia stata... di chi dice che ora è questa stata... cosa. Sì, questo sì, questo sì. È un po' anche alla faccia tua che dici: ah, le macchine rubano spazio. Repressione cade sulle biciclette perché bisogna fare spazio. Col cazzo, nel 1890 ci sono state 2 macchine a Firenze. Quindi no, non è vero, cioè, è che proprio le bici stanno sul cazzo. Stanno sul cazzo. E quindi già Francesco Guicciardini all'epoca, nel appunto nel 1890, si sta parlando di 130 anni fa, aveva già una visione del futuro. Aveva già un'ottima visione innovativa di quello che sarebbe stato innovativo in modo suo. Certo, ha precorso i tempi. Sì. No, ma questo poi non solo, perché poi ne ho trovate ancora altre anche riguardo all'epoca fascista. C'era tutta una faccenda, perché ora non ho capito bene, non ho cercato ulteriori informazioni, però fondamentalmente a un certo punto, a quanto ho capito, il regime fascista aveva vietato l'utilizzo della bicicletta per svolgere determinate funzioni, soprattutto funzioni di carico, quindi non potevi caricarci sopra roba. E invece il comune di Firenze a un certo punto chiede al gerarca fascista del sindacato di fondamentalmente esentare alcuni lavoratori da questo divieto, e in particolare parlava dei lavoratori che portano a giro i fiori, i fiorai e queste robe qua. E il gerarca disse no, perché è pericoloso, il fiore a pedali. Indagherò. Comunque fondamentalmente ho trovato un archivio in un archivio del comune di Firenze. Ho trovato un sacco di roba, cioè c'è un PDF, c'è una ricerca che è uscita qualche anno fa, era il 2013-2015, insomma è stato pubblicato, e si trovano un sacco di prime pagine di giornali, cose, curiosità, archivio sui velocipedi a Firenze, sì, velocipedi e velocimani. Che cosa sono i velocimani? I velocimani saranno le biciclette senza pedali, all'epoca immagino che ci fossero anche quelle. Le mani. Sì, che andavi con le mani in terra. E qui guarda il nostro roller. Quindi pensate, allora, dalle 8 alle 18 lire per due ruote fondamentalmente. Voi ne avete 8. Per i monocicli non vale. No, ancora non c'era. Monociclo risparmi. Ma neanche i pattini, ad esempio. Quando sono nati i pattini, a proposito? Questa è una domanda difficile. Supponiamo siano nati... Negli anni 90. No, negli anni 90 c'è allora... Negli anni 90... I roller, però i pattini a quattro ruote, quelli antichi, vecchissimi, di cui tu hai anche un modello storico. Secondo me prima. Secondo me subito dopo questa legge sarà uscita. Allora, possiamo aprire internet e chiedere, però dai. No. Allora, secondo me, siccome non potevano portare i fiori con la bici, hanno inventato portiamo i fiori a mano con i pattini. Un'altra delle grandi innovazioni di Firenze. Ha ragione, sì, perché sembra che Firenze abbia inventato i pattini. È ormai sicuro. Sì. Inutile cercare. Allora io faccio una scommessa. Intanto se qualcuno sta cercando, io punto. Secondo me anni 50. Anni 50 ci può stare. Anni 50 America. Secondo te quando sono nati? Dai, stiamo mettendo 60, scommessa 68. La data scusa, a ottobre o a marzo? Non mi ricordo. Cioè, ma ad aprile, no? Ad aprile. Ma questo siete sulla nascita dei pattini, eh? Sì, noi ci siamo impelagati in questa, okay, in questa cosa. Non abbiamo trovato una risposta. Dacci la risposta. Ora Domenico ce l'ha la risposta. Se qualsiasi ascoltatore o ascoltatrice lo sa, lo può scrivere. Noi abbiamo la pagina Facebook di fronte a noi aperta, naturalmente. Esatto. E anche la mail, quindi potete scriverlo sulla pagina Wombat. Però Facebook. Non andate su Wikipedia, cioè non imbrogliamo. Non imbrogliamo, è vero, dovete sapere la memoria, altrimenti ce ne accorgiamo. Potete scrivere anche wombat.blogs.org. No, quello è il blog. Esatto, posta Wombat, chiocciolenziberia.net. Come immagine di anteprima della nostra puntata di oggi, abbiamo messo un bel furgone del comune che si porta via un bel po' di biciclette. Sacchi bici? Sacchi bici, è vero, è iniziato il grande Repulisti. È iniziata questa grande operazione in grande stile, concordata anche con le associazioni di usufruitori di bici, perché non chi voglio sono dire gli usufruitori di bici? Ah, di ciclisti. Ah, ok. Dai. No? Di chi utilizza la bici quotidianamente, okay. Non soltanto appunto per motivi sportivi. È stata concordata questa operazione per pulire il rastrelliere, che oggettivamente in alcuni casi sono piene di rottami antichi che risalgono appunto all'epoca dell'invenzione dei pattini a Firenze, lo ricordo. Però ci sono stati già degli inconvenienti. Ci sono stati già degli inconvenienti perché vediamo che qualche bici nuova di pacca è stata portata via appena parcheggiata. Quindi state ad occhio, ci sono gli avvisi sulle rastrelliere.

Radio Wombat. Da sempre. E obiettivamente. La migliore. Avete anche sentito Denever con... Con la tosse? Con la tosse, sì. Ah, ok. No, mi avete mandato in diretta, grazie. Bene, bene. Caro Denever, insomma, che ci racconti? Ma soprattutto bisogna vedere questa scommessa sulla nascita di Roma. Ah, già, vero. Quando sono nate queste Noi abbiamo Gringo, che è il nostro esperto, no? Ho fatto una ricerca a tutto campo. Approfondita. Sembra... fonti certe lo danno la prima apparizione nel 1743. Beh, prima l'avamo preso alla grande. In un teatro a Londra, che sta durante uno spettacolo, ha fatto la prima apparizione. 2 anni prima che nascessi io, praticamente. Esatto. 1743-1745. Ottimo. Poi, ovviamente in un teatro è il luogo ideale per provare le prima volta. Top. Invece poi che la maturità tecnologica, così è stata definita, è arrivata nel 1960 circa. Ah, e quindi chi vince ci la scommessa? Ci ha messo per maturare? Vedo qualcuno che gongola, ecco, ha vinto la scommessa. Ti avevi detto 68, giusto? Sì, dai, 8 anni, che sarà sì, mai. Sì, dai, ci si andava vicino. Okay. Bene, hai vinto un adesivo di Radio Wombat. Yeah! Tieni, guarda, te lo do subito. Io volevo sottolineare... Ci sono voluti 200 anni di tecnologia per riuscire a farli maturare. Doveva essere fatto una cosa a modino. Allora, Odenever, ma che si fa? Oggi abbiamo, abbiamo un intervento importante, perché sapete, si sta preparando la Cemona e noi abbiamo un intervento da Roma che ci racconterà come sta andando la preparazione della Cemona. Quindi adesso lo chiamiamo. Chiamiamola. Ti fa la chiamata, io. Tu tossisci? Tossisci al posto mio, grazie, perché io non posso tossire. Alla faccia della professionalità in radio mi giro anche io. Bussa. Ah, questo è anche il mio telefono che squilla. È mia sorella. Pronto? Pronto, Alessia, buonasera. Ciao, bentrovata. Ciao, buonasera. Bentrovata. Buonasera. Sai perché ti stiamo... Anzi, prima di tutto, domanda fondamentale che ci chiediamo noi tutti qui. Sì. Tu c'eri alla Cemona l'anno scorso a Firenze? Certo, sono venuta. Oh, bravissima. Allora a questi punti ci stai già più simpatico. Ha fatto cagare, dillo la verità. Dillo. Esprimi il vero come dire, il vero pensiero dei... Era meglio l'anno prima. Dei Masters romani. No, è stata carina, è stata molto bella invece. Secondo me a Firenze gli è rimasta un sacco sui coglioni, infatti... Dite, dai, dai, già siete pieni di bici, quindi i ciclisti dovrebbero già stare un po' sui coglioni. Guarda, Cemona meno. La nostra trasmissione si chiama In Punta di Pedale e trattiamo proprio questo argomento. Anzi, che bello! Quindi si può parlare pure dei piedi pelle, cose, tacchette dei lai. Sì, tutto quello che vuoi. Cancelli e altro. Tanto. Guarda, abbiamo aperto la puntata oggi... perché il nostro fido Briccobaldo qui ha scoperto un documento nell'archivio fiorentino che bandiva le bici da Firenze già nel 1894, pensa tu. Ah, vedi, già all'avanguardia. 1890, sì, nel settembre del 1890. Sì, dicevano già che volevano le targhe sulle biciclette, pensa un po'. Siamo messi bene. Senti Alessia, noi volevamo sapere un po' come procedono i preparativi e soprattutto quando sarà la Cemona, come sarà, dove sarà e tutto quanto. A te la parola. Allora, Cemona 2019, Roma innanzitutto. Torna a casa. Torna a casa, fa un piccolo rientro, poi speriamo che insomma si riporti in giro. E come al solito, come ogni Cemona, l'ultimo fine settimana di maggio. Quindi 31, e quindi inizierà 31 maggio, 31 maggio, 1 e 2 giugno. Ottimo. Allora, venerdì 31 maggio la Cemona sarà ospitata dalla Critical Mass mensile, quindi la Critical Mass romana. Sarà venerdì, partiremo alle 18, cioè l'appuntamento è alle 18. Sì. 18, 18 e 30, insomma, gli orari sono un po' alla romana, per cui a Roma tendiamo un po' ad allungarci. Alessia, partiva da Piazza Vittorio. Ti confido un segreto. Scusate, ragazzi. Alessia, ti confido. Vai, vai, parla che ti sento. Alza il volume. Vai, parla. Partirà? Da Piazza Vittorio. Piazza okay. Vittorio, una piazza centrale, ed è il nostro luogo di appuntamento mensile. Quindi è il primo appuntamento di venerdì. Poi passiamo subito all'evento vero e proprio, che è proprio la Cemonaga di sabato, e partirà alle 3, cioè sempre il concentramento sarà alle 3 a Piazza San Paolo, cioè a Piazza San Paolo, a Parco Schuster, che è in zona San Paolo, quindi Roma Sud, in zona Ostiense. Inizierà, quindi aspetteremo tutti e tutte nel parco, per poi andare a invadere un po' la città e rendere un po' le strade più contente, e forse far arrabbiare qualcuno, però tanto sono abituati, diciamo, a Roma, al traffico, agli ingordi, quindi diciamo su questo andiamo tranquilli, insomma, l'abitudine. Senti, il tema di questa cimona? Scusa. E quest'anno appunto abbiamo deciso di dare un tema, sempre perché siamo all'avanguardia noi, sarà No Borders. No Borders però spinto un po' oltre i confini, un po' spazio temporali, quindi un po' un non borders, diciamo, intergalattico, proprio perché pensare solo ai confini terrestri ci sembra un po' troppo scontato, poi di questi tempi ormai, no? Sappiamo tutti che i confini sono un po' una questione critica e nodosa, quindi l'abbiamo spinta così, visto che comunque la CEM è sempre qualcosa di allegro e gioioso, quindi la ributtiamo un po' su un confine interspaziale, intergalattico. Visto quindi, che... Sì, dicevo, visto anche il logo riflette questo, no? Che sono le due mani che si uniscono. Sì, esatto, le due mani che si uniscono per essere un po' tutti vicini, no? Tutti certo. Solidali. Tutti uniti. E non solo appunto col mondo terrestre, ma anche col mondo spaziale. Quindi anche l'invito un po' a chi viene, a chi vuole partecipare, di attrezzarsi in merito. No, magari... I marziani sono ben accetti. Alienato in qualche modo. Gli alieni sono ben accetti. Sì, sono quelli che ci piacciono di più, perché... Insomma, anche loro hanno diritto in qualche modo. Vabbè, la ributtiamo un po' così, perché ci sembra un po' scontato anche dire e parlare di confini, ecco, di confini amministrativi, ecco, certo. Diciamo questo. Mm-hmm. E quindi abbiamo pensato bene di spingerla oltre. E poi niente, la domenica come al solito sarà a Roma almeno la pedalata verso il mare. Bello. Quindi partiremo alle 11, partiremo sempre il concentramento alle 11 per andare poi verso il mare, verso il litorale laziale, e quindi farci una nuotata, ma anche prenderci un po' di sabbia, insomma, così fare una bella pedalata. Che Alessia, possa... ascolta. Senti, qui ci sono molto attenti con le orecchie, molto... abbiamo due ospiti che non sono esattamente degli utenti della bicicletta, ma sono dei pattinatori. E volevano sapere se possono venire anche loro, soprattutto... Guarda, io ti dico, ho partecipato alla Cemona di Bologna con i pattini, quindi... Grande! Bravissima! Mi si sono sfondati subito, però vabbè... Non so se c'eri... Però sì, come sempre, cioè, noi qualsiasi mezzo non a motore è sempre ben accetto, quindi pattini, monopattini, skate... ci fa sempre piacere condividere la strada con chi appunto non usa solo, cioè usa le gambe, però può usare anche, ecco, delle ruote particolari. Grande Alessia. Basta che non sia un po' appunto tra motore, l'altro, insomma, stavo dicendo, a Roma c'è una delle associazioni più grosse d'Italia di pattinatori. Adesso facciamo venire tutti, questa è una mia promessa. Devo portare un sacco di gente. Alessia, non so se c'eri tu domenica invece alla Cemona a Firenze, quando siamo andati a Mondeggi. Sì, siamo stati, siamo presi l'acquazzone. Esatto, esatto. Bellissimo. Allora ci hai visti. Quei due folli che salivano con il roller. Come quando uno dice sposa bagnata, sposa fortunata. C'è cioè, una bagnata, c'è una fortunata. Quindi, sì, ma a Roma si spera un po'. Speriamo che a Roma decente. Non piova, però se piove non ci castristeremo, ecco. Anche perché io sono stato a Roma recentemente, ho visto dei coraggiosi in bici, però sinceramente io... Davvero, uso la bici tutti i giorni, però a Roma, effettivamente, guardando cosa succedeva a questi ciclisti, un po' mi sono irrigidito, eh. No, è solo una questione di abitudine, solo... Uh-huh. Di proporsi, come dicono. Abitudine, sì, comunque, ecco, diventa un po'... io dico un videogioco, no? Quando salgo in bici per Roma mi sembra un po' di fare un videogioco, quindi il problema sono il numero di vite che hai, che sono... Vabbè, speriamo di averne tante. Scherzo. Speriamo di averne tante, e comunque Santa Graziella ci assiste sempre. Sempre, eh? Santa Graziella sia sempre benedetta. Tra l'altro non la invochiamo abbastanza spesso ogni volta che partiamo con la trasmissione, Bricco. Forse è Santa Graziella? Sì, la dovremmo dovremmo ringraziarci, Santa Graziella. Perché comunque tutti i santi suonano un po' strani, se te lo posso dire. Sì, ci abbiamo un po' la... Almeno per me. Sì, suonano sempre un po' strani. Alessia, senti, poi ti volevo chiedere... Però comunque Santa Graziella immagino sia cugina di Grazia. No, dell'altra, quella è la cugina al secondo grado, la destra. Senti Alessia, ti volevo chiedere, il ciclocampo invece si sa più o meno dove sarà? Allora, stiamo diciamo organizzando il campeggio, diciamo, il posto è ancora una sorpresa. Ecco, ok, allora dici così. Solo quello che... Quindi sicuramente ci sarà il ciclocamp. Quindi c'è la possibilità di essere ospitati come un Cemona. Quindi questa bella cosa che comunque ci riunisce un po', no? Ci rende partecipi, ci fa entrare un po' in quel mondo dei puffi, da quale non vorresti mai uscire, però purtroppo ma i puffi sono solo blu. Tre giorni. Pure i puffi, no? È Nord Borders, questa Cemona, quindi sarà pure il mondo dei blu puffi. Il bianco ultimamente non va d'accordo con la critica al MAS, almeno a Torino, però vabbè. Che cosa? No, vabbè, non quei puffi, quelli sono puffi cattivi, bruttarielli. Sì, in effetti poi la questione che è capita da che è successo a Torino un po' riflette quello che sta succedendo su, sì, no? La sì, questione sì. dell'asilo, quindi questo, diciamo, noi qui a Roma non vogliamo nemmeno dare troppo peso a questa cosa, perché significherebbe spostare un po' l'attenzione, certo. Invece noi siamo comunque il bersaglio facile, i ciclisti, per strada siamo i primi che possiamo essere insultati e tacciati come incivili, come incapaci, però è come un po' sparare sulla Croce Rossa quando spari sul ciclista, e quindi anche diciamo, questo è il mio pensiero. I fatti di Torino sono stati legati a tutta una questione che purtroppo la città sta vivendo. Sì, abbiamo la puntata scorsa l'abbiamo dedicata proprio ai fatti di Torino, e abbiamo avuto anche ospite, diciamo, telefonicamente un compagno della Critical Mass di Torino che ci ha spiegato un po' tutti i retroscena. E effettivamente coincide con quanto stai dicendo tu. Sì. Sì, insomma, questo... Poi sono previsti concerti, roba del genere, ancora è tutta una sorpresa allora. Siamo ancora tutto in forze, in programmazione, quindi... Non ti vuoi sbilanciare? No, vi consiglio comunque di seguire sempre il sito cemona.noblog.org, in modo che potete avere gli aggiornamenti e quant'altro. Quindi sarete comunque insomma informati, aggiornati man mano che poi la programmazione sarà più sviluppata e tutto quanto. Noi insomma ce la stiamo mettendo tutta per far sì che questa Cemona sia bellissima. Più bella di quella di Firenze. Ma non più bella, bellissima come quella di Firenze, come quella che è stata a Bari, a Bologna, a Milano, che è stata nel passato anche qui a Roma, perché... Sì. Io penso che la più bella Cemona è stata quella del 2013 a Roma, quella proprio dell'ondata di non so quante biciclette. Tante. Beh, i numeri erano sui 3.000, mi pare. Quindi credo che pure quest'anno saranno quelli. Da una parte spero di più, dall'altra un po' l'ansia di non sapere come contenere questa massa. Diciamo, i ciclisti sono sempre belle persone che sono super auto-organizzate, che sono super disponibili, sono, cioè, ecco appunto, la croce rossa sulla quale sparare, per cui la butto lì, però questo è, insomma, siamo delle belle, bellissime persone, ecco, quindi... Questa è la cosa che, insomma, mi piace pensare, che siamo un bel mondo noi ciclisti. Grande, Alessia, siamo avanti, bellissimo. Siamo sempre un passo avanti, top, una pedalata avanti. Va bene, Alessia, ti ringraziamo moltissimo di tutte queste informazioni e di questa carica che ci hai dato. Grazie a tutti, vi ricordo appunto 31 maggio alle 18 a Piazza Vittorio, 1 giugno alle 3 Parco Schuster e 2 giugno in Piazzale della Piramide alle 11 per andare tutti insieme al mare. Grande, intanto benissimo. C'è uno che sta provando una volcanica. Ma tu adesso sei in bici, raccontaci un po' il retroscena. Allora, questa... io adesso qua piove, pioviccica, c'è un bellissimo arcobaleno e mi sto riparando dagli amici ciclisti di un negozio di biciclette. Ah. Quindi sto anche parlando un po' con loro, un po' della Gemona, di tutti i retrosceni organizzativi. Ah, okay. E sì, dai, salutaci tutti. Andiamo allora avanti, anche nonostante la pioggia. Comunque ci sono due arcobaleni bellissimi che ci danno delle belle cose. Vai. Quindi, bene, Alessia, allora ti salutiamo e abbraccio a tutti. Va bene, gli amici. Un saluto a tutti, ci vediamo a Roma. Mi raccomando, pedalare duro. Sì, pedala duro, tranquilla. Sì, sì. Ciao. Dai, ciao. Ciao, ciao, ciao. Che bello. Che bello, che carica. E dopo questa carica? Una canzoncina. Una canzoncina, dai, ci sta sentiamo benissimo. Sentiamo il nostro DJ. DJ, cosa ci proponi? DJ Gringo. Gringo. Vai. Just like it everywhere. Yeah, I was living in St. Louis in the year of 1955. Mama didn't have no great mansion, just a gonna bring some happy hours, doing the only thing I knew. Can't have it but I love it, stand here sing to you. Brings back so many memories, many things we used to do. Till I see you Radio Wombat. Da sempre e obiettivamente la migliore. Torniamo in regia. Eccoci qua. Ricco Baldo, ho una dimostrazione. Dai, sentiamo. La musica bella la metti come sfondi. E la musica che a me però era piace, Chuck Berry, quello di prima, dai. Ho capito, ma mica male, insomma. Sì, tanto rispetto per Chuck Berry, però voglio dire, per Gemma sono meglio. Sì, vabbè. Sono gusti, eh. Però io sono scarso alla musica, lo sai. Allora, parlavamo di pioggia, se non mi sbaglio. Pioggia? Sì, Alessia ci diceva che c'è la pioggia e c'è l'acqua. Esatto. Allora, io intanto ho una lettura da consigliare un po' a tutti e tutte, che si chiama, che è una lettura di Bici Ribelle, di un autore che non mi ricordo. Comunque pubblicato da Stampa Alternativa in copyleft, e quindi si trova in PDF sul web. E fondamentalmente oggi vi ho trovato questo proprio da lì, da Bici Ribelle, che è un rimedio, un antico rimedio per i ciclisti nelle giornate piovose. Sto parlando esattamente del mantello padano. Non so se ne hai mai sentito parlare di questo mantello padano. Famosissimo, e famosissimo mantello padano, detto anche tabarro. Il tabarro era questo abbigliamento tipico dei contadini, era fondamentalmente un grande poncio di cerato. Si calcava in testa il cappello nero, tipico cappello nero con la piuma che veniva dalla coda di un galletto cedrone, e ci si buttava sulla bicicletta, si afferrava il tabarro, questo grande mantello, e ci si avvolgeva intorno con un gesto del seminatore. Poi, una volta fatto questo, si posavano le balze sul manubrio per evitare che il lungo mantello si impigliasse nelle ruote. Si partiva e via, e via, e via. Tutto questo è un po' ricondotto non alla nostra parte d'Italia, o almeno non proprio alla Toscana. È un vestiario tipico della pianura padana. Proprio perché in pianura padana sappiamo benissimo che il maltempo è la neve. Sì. Io infatti ci sono delle... Ma il gesto da inseminatore... Il gesto da seminatore? Il gesto da seminatore? Giusta domanda. È di bacino, un tempo i contadini tenevano i semi quando andavano a seminare, che ne so, il grano nei campi, no? Quindi dovevano fare una grossa estensione. Tenevano tendenzialmente il seme in una sacca legata alla cintura, bene? Magari tenevano la sacca all'altezza della cintura, però sulla sinistra, con la mano destra andavano a prendere una manciata di grano e poi la lanciavano con un gesto, diciamo, come sfalciante verso l'alto, di modo da avere un getto che andasse in un raggio di, che ne so, qualche metro. Questo è all'incirca quello che viene fatto che veniva fatto con il tabarro per metterselo sulle spalle addosso, perché è un grande panno senza cernieri né bottoni. Ci vedo io con i roller e col tabarro. Ho detto bene quella cosa del seminatore, Grigo? Sì, hai detto proprio bene, ma la domanda era un'altra. Il gesto dell'inseminatore. Ah, il gesto dell'inseminatore. Però il gesto dell'inseminatore, sì, era quello che aveva colto con l'interesse. La sacca e la mano destra. Io non so. Ho un po' di dubbi. Ognuno lo legga un po' come vuole, questa cosa. Di fatto è così. Infatti, essendo un vestiario romagnolo, abbiamo un sacco di citazioni di proprio romagnolo. Addirittura c'è questo Domenico Mazzolato che dice: è d'obbligo menzionare il vecchio e glorioso mantello padano. È proprio qui, nei territori umidi e pianeggianti e ripetitivi della pianura padana, che le biciclette ebbero il loro habitat d'elezione. Il rapporto dei padani con le due ruote è stato nel corso del Novecento strettissimo. Così un'altra citazione di Guido Conti, che addirittura parla, sempre a proposito della bici in Padania, nella pianura padana, di come questa propensione all'utilizzo delle due ruote abbia portato un sacco di mestieri nelle strade e nelle piazze delle città. Questo succedeva anche a Firenze. Si parla di pompieri che un tempo andavano in giro in bicicletta, si parla di arrotini che avevano la mola direttamente montata sul telaio, la facevano girare con i pedali. Si può parlare dei burattinai, dei bottari, veramente di tutto e di più. Però io mi ero un po' focalizzato su questa cosa del tabarro. Andatevi a cercare qualche foto, è veramente una figata, perché è un metodo semplicissimo, no? Come povero, che non costa niente. E addirittura vi sono anche dei grandissimi appassionati di questo oggetto nello specifico. Ora questo non è proprio pertinente a quello che andiamo noi a trattare, però mi ha veramente colpito questa confraternita del tabarro. Fondamentalmente questa confraternita del tabarro sono un gruppo di persone che un sodalizio deambulante, dicono loro, nottetempo, per le strade nebbiose della Bassa Padania. Non è raro vedere le loro ombre furtive. Bassa Padana o Bassa Padania? Bassa Padana. Ah, ok. Però in verità è un indumento che è diffuso dal Veneto dove fino alla Romagna, fondamentalmente dove c'è umido. E, quindi anche a Firenze stanno. Quindi ogni tanto se vi capita di vedere delle figure furtive che si... Intabarrate, appunto, come si dice, che si aggirano per i portici e nella nebbia, non vi preoccupate, non io sono... dico coi roller, però suona bene, no? Oggi sto proprio intabarrato, è da lì che proviene. Fatto sta, insomma, io ho questa confraternita, è un'associazione, e quindi io ho trovato il numero, magari proviamo a chiamarla, che ne dite? Va bene, proviamo a chiamare vediamo che cosa, perché io prima ho provato, volevo un attimo sentire, ma in verità no, non mi hanno risposto, quindi proviamo adesso. Se Regione ci rispondono, vediamo. Regione dell'Emilia. Esatto. Non sento bussare. Avete collegato il microfono? Ecco, bussa. Sentiamo. A te la parola, Bricco. Si escono dal tabarro. No, non ci voglio rispondere. Niente, non ci vogliono spiegare che cazzo se ne fanno di sti tabarri e questa confraternita a cosa serve. Niente, via, non ci rispondono, mi dispiace. Sarà per un'altra volta. Comunque, fondamentalmente... Il tabarro a me interessa. Fondamentalmente, da quello che si capisce da questo sito, dalla loro pagina Facebook, è che fondamentalmente loro si prendono sti tabarri e per amore delle antiche tradizioni vanno a rifugiarsi dentro taverne, locande, si fanno delle gran sgranate in socialità. E questo è quanto. Però una piccola nota la vorrei, perché fra questi scritti ho ritrovato, no? Gli uomini in tabarro, resistenti alla modernità globalizzata, preservano in un'Arcadia felice, perché conservano la metafisica capacità di vedere una luce lontana quando la foschia cala il suo velo uniforme, il suo sipario campestre. A me ha riportato, devo essere sincero, al concetto della bicicletta, no? Perché anch'essa è un mezzo semplice che ci tiene ben ancorati al territorio che percorriamo, non per forza quello nostro di origine, però che questo rifiuto di una modernità, fondamentalmente. Cosa sta succedendo qua? Come mai è partita? Eri andato molto in modalità super quark, super quark. mi son permesso il tabarro. tipico indumento della Padania, della Padana, della pianura padana, serve per proteggere le membra dell'uomo stanco di ritorno dal lavoro nei campi, dall'umido e dalla nebbia e dal freddo e dal vento che tanto colpisce quelle lande desolate. È sconsigliato il suo utilizzo in estate, in posti dove non c'è pioggia, dove non c'è nebbia e dove non c'è forte vento. Ottimo. Per maggiori informazioni potete andare a cercarvi la pagina Facebook della Confraternita del Tabarro, fondamentalmente, oppure potete ascoltare in Punta di Pedali che vi racconta un sacco di queste stronzate. Bene, a proposito di racconti e di informazioni importanti. Basta con le cazzate. A Firenze ci sarà un evento sempre in bicicletta che non è la Ciemona, che però verrà dopo la Ciemona, sarà a giugno. E noi abbiamo ben pensato di informarci di più su questo evento. E per questo motivo sentiamo un nostro tizio conoscente che ne sa qualcosa. Quindi ci è preso bene oggi sta questione delle telefonate, no? Noi vi abbiamo invitato. Mi piace telefonare. Esatto, vi abbiamo invitato per guardarci telefonare. Grazie. Poi gentili un giorno come vi daremo la parola anche a voi, eh? Vediamo questa telefonata come va. Voglio vedere se gli metti super quark di sotto a lui. Però era bello, vale. Cioè, era proprio, ci stava a mille. E vabbè, allora sentiamo se ci rispondono. Almeno loro, dai. Niente, non ci vogliono parlare quest'oggi. No. Pronto? Pronto, salve, lei organizza gare clandestine? Sì, dai. Buonasera carissimo compare, buonasera. Abbiamo saputo che ci sarà un evento ciclistico a Firenze. Volevamo sapere da lei maggiori informazioni, ecco. Innanzitutto che cos'è? Allora, come tipo di gara sono le Alley Cat, che sono queste gare che sono nate a New York fra i vari messenger. Quindi, che poi sono espatriate. E non so se tutti le conoscono, le Alecat, ma è tipo una caccia a tesoro, diciamo. Wow, bello, una caccia a tesoro in bicicletta. Quindi chi va più veloce a checkpoint arriva primo e si prende premio. Wow, e che vince? Detta così sembra semplice, ma ci sono persone che corrono abbastanza forte, quindi... Mm-hmm. Ora, da noi non c'è una grande cultura di messenger, di fattorini, perché noi siamo abbastanza sfortunati con i fattorini, diciamo. Beh, quelli di Deliveroo si potrebbe chiedere. Sono quasi dei messenger loro, effettivamente. Non portano messaggi, ma portano pizze. Infatti noi quest'anno si spererebbe che possano venire il più possibile quelli di Deliveroo. Abbandonare per un pomeriggio il loro lavoro, che tanto magari vale poco, e vincerci qualche premio che vale di più, a meno di quelle. Secondo me si incazzano se gli si dice che il loro lavoro vale poco. Ma senti, ma si può venire... No, vengono retribuiti poco, diciamo. Esatto. Sì, quello sì. Senti, ma le biciclette valgono tutte oppure servono le biciclette? Perché tutte io... le biciclette. Se qualcuno ha coraggio di venire in Graziella, ben. Azzo. Allora, abbiamo anche il premio bicicletta sbagliata, quindi premi per tutti, anche per l'ultimo. Perché io sapevo che l'Alleycat, non so come si pronuncia, Alleycat, erano fondamentalmente biciclette a scatto fisso. Sì, inizialmente c'è stata questa mandata di svasataggine in tutto il resto d'Europa per le scatto fisso, perché c'è stato un trend anche un po' grazie a dei film americani degli anni 70-80 dove c'erano questi messenger che andavano appunto con queste biciclette a scatto fisso. Poi in verità anche in quegli stessi film facevano vincere quelli a scatto fisso, ma in verità gareggiavano sempre col corrispettivo del, diciamo, bicicletta da corsa in carbonio di oggi. Quindi... Chiaro. C'è ovviamente il premio anche per scatto fisso, perché è quello che dura più fatica di tutti. Chi viene in carbonio ovviamente avvantaggiato, anche se arriva prima, però forse il premio più bello è per quello. Senti, io in carbonio per le strade di Firenze non ci vengo nemmeno se mi ripaghi il telaio, perché c'è chi c'è venuto, quindi vabbè. Se lo poteva permettere, se lo faceva ne aveva di telai. Te la puoi fare con la Graziella, Denever, non ti preoccupare. Sì, io sto cercando di rubare la Graziella, tra l'altro ho un conoscente di nostro compare qui, però ancora non ci sono riusciti. È una Graziella blu, l'ho puntata. Una cartella truccata, tipo sì. Sul cinquantino ci mettevi 75. Esatto. Guarda, se poi la fai scatto fisso potresti riuscire anche a vincere due premi contemporanei. Sì. Allora, l'hanno fatta la cartella scatto fisso. Sì. Ma senti, in tutto questo quando sarà? Allora, la data è il 9 giugno di quest'anno, diciamo, e una gara che viene fatta di pomeriggio, diciamo, il gioco alle 3, poi una mezz'oretta per organizzarsi, si parte, e poi in fondo c'è festa e birra, ovviamente, perché i ciclisti vogliono una birra in fondo a tutte le corse che fanno, e premiazione. Il percorso è già definito? Il percorso non è definito, ovviamente, fino all'ultimo lo sapranno le persone quando arrivano, esatto. E gli diamo i flyer con tutte le indicazioni. Ok, naturalmente, cioè, questo si svolge nella giornata normale, quindi nel traffico, nelle strade come sono tutti i giorni, fondamentalmente. Sì, diciamo, ora il 9 sarà una domenica, quindi magari uno è più avvantaggiato, però non è detto che il traffico sia soltanto l'unica difficoltà. Dai, noi cerchiamo, cioè, si cerca sempre di mettere comunque sia come difficoltà non solo il polpaccino bello atletico, ma anche proprio l'intelligenza di coprire la città in meno tempo possibile. Quindi, al di là della gara forzosa di spinta di polpaccio, è proprio anche una gara di intelligenza, diciamo. Quindi è una via di mezzo fra una gara e una caccia al tesoro, è una furbizia nel risolvere, cioè, la mappa. Se metti solo le gambe non arrivi comunque. Una sorta di orienteering, cioè le discipline di... Può essere un paragone? No, lo sento convinto. Ok, la risposta. Ne faccio un altro, un po' come il free run di parkour, no? Sì, ci può stare. Sì, sono tutte queste cose un po' così urban che secondo me... Curiosità, ma cioè, quanto è lungo un tragitto di una gara di questo tipo? Allora, di solito andando in quella, non è una lunghezza dritta, diciamo, di solito sono dai 30 km in su. Okay. Burda, lui te lo chiede perché vuole venire coi pattini. Ma devono venire tutti, certo, sui pattini. Ma guarda, di solito si premia veramente tutti a cascata, quindi secondo me si fa, cioè, se uno viene coi pattini si qualcosa si becca. Sbagliato. Un premio lo prendo sicuro, però sì, mezzo sbagliato, il premio mezzo sbagliato. Il premio disagio, faremo il premio disagio. Chi viene e corre coi pattini e vince il premio. Beh, vai, questo ha avuto il coraggio di salire a Mondeggi coi pattini, fai un po' tu. Magari dopo un po' vi si viene a raccattare, se no poi vi perdete la birra, però vabbè. Top. Ma vale, io ho quasi vinto tutti in altre gare il premio in bicicletta sbagliata. Non è che vai con la babbo bike, no? Col seggiolino del bambino. No, però farsi magari una gravel con una da corsa, insomma, con pestoncini così, ecco. Quella me l'hanno data. Sono vinto una cassetta di arance. Quindi ripetiamo l'appuntamento, 9 giugno. 9 giugno, piazza, dalle 3, piazza Poggi. In piazza Poggi. Okay. Bene, benissimo. Che è il ritrovo storico di tutte le alleate di Firenze, diciamo. Bello. Qual è Piazza Poggi, scusate? Piazza Poggi è quella in fondo alle rampe. Che sì, esatto. San Nicolò. Ah, San Nicolò, ok. Dove fanno il pranzo del 25 aprile. Ah, esatto. È anche un posto cercato anche per quello, perché c'è un po' di storia, diciamo. Benissimo. Bene. Bene. Caro compare, allora, ti ringraziamo per questo tuo intervento e speriamo... Aspetto tutti, anche se venite col triciclo, monociclo, sì. Io un pensierino ce lo faccio, senti. Mi ha incoraggiato. Noi veniamo, siamo in 5. Pensavo fosse una cosa da polpaccio. Anche perché è una cosa goliardica, quindi si fa per stanziani. Ah, beh. Quindi... Senti, ci sono dei riferimenti online, la pagina Facebook, cose del genere? Sì, allora, c'è su Facebook, c'è Florence 5 Boroughs, scritto come quartieri. E lo trovate, o se no, per chi segue altri forum, tipo il Fixed Forum, anche lì c'è sempre Florence 5 Boroughs. Va bene, perfetto. Bella storia. Bello. C'è anche l'Instagram, volendo, sì. C'è anche Instagram. Allora siete social. Molto più social di noi. Sì, molto, molto social. Se no queste cose non vanno se non sei social, quindi. Beh, anche perché gli sponsor ti danno tanti sponsor e di contro gli fai un bel po' di sponsorizzazione. Non a gratis, perché ti danno dei bei prodotti, però... Noi pensava qui con Bricobaldo di venire a intervistare un po' e così poi ecco, fare una puntata su sui messenger, sui messenger in scatto fisso. Ora sappiamo anche non in scatto fisso, ma in Graziella. Esatto. Se magari, ma guarda, forse... noi ora andremo ai Capannelli a fare un po' di volantinaggio di questo evento, perché secondo me questa gente c'ha bisogno anche di scatenarsi al di là delle consegne di tutti i giorni. Quindi... top. Bene, dai, allora ci vediamo. Ma veloce poi anche tra loro, che pesta, ho visti girare in città. Ma c'hanno la bici elettrica, barano. Sì. Vanno. Bene. Bene. Alla prossima. Ci vediamo il 9 allora. Grazie. Al 9, ciao 9 giugno. Ciao. Ciao ciao. Eh sì. Messenger. I Messenger con l'Alley Cat. Beh, andiamo a vederli, dai. Sì, io le voglio andare a vedere. Magari ci provo anche a fare due pedalate. Sì. Poi a 30 km è roba. Se mi passa la bronchite si può fare. 30 km. Stai piazzando scuse tu, Se ti passa la bronchite il 9 io ho messo giugno, già le matte a me il 9 giugno. Se mi dura fino al 9 giugno è un altro problema, no? Sarò già sottoterra. E comunque noi stiamo organizzando un'altra cosa a Denver. È una cosa importante, so però io ti blocco. Dai. Ti blocco, okay. Perché io ho visto la luce negli occhi di qualcuno. Hai visto la luce negli occhi di qualcuno, di sì, due che persone. Quando sentivano parlare di Cimona hanno detto: e se ci andiamo tutti assieme? Quindi, ok. E se ci andassimo tutti quanti insieme alla Cimona? Grazie per l'aver... Va bene, dai, lanciamo. L'italiano. L'italiano ce lo siamo dimenticati. Deve venire una da Bari, arriva. Partenza, secondo voi? Sì. Beh, allora, diciamo, è il 31 di maggio, va bene, quindi immagino che voi non ci vogliate andare né in treno né in macchina, bensì... In pattini, è ovvio. Ok, quindi diciamo, quanti sono? Circa 400 km per arrivare a Roma? Beh, sì, facciamo 4 giorni, 100 km al giorno. Lanciamo la challenge. 300... No, vabbè, ragazzi. Con i pattini li fate 100 si km fa così. Al giorno. Beh, sì, poi non facciamo la Cimona, però. Facciamo che voi partite un po' policlinico. Ma invece si potrebbe fare che ci si dà appuntamento tutti a Campo di Marte. Si in sale Piazza Poggi, direi. No, Piazza Poggi non è vicino alla stazione, dai. Ah, ti volevi prendere il treno? Io propongo il treno. Si arriva. Quanto si parte sei, per... Quanto sei poco poetico, Denver? Scusa. Sono borghese. Almeno cioè, lanciamola, poi all'ultimo diciamo: no, vabbè, ragazzi, se si scherzava. Allora, se aspetta, però no, facciamo il figlio. Stavo scherzando, po', il treno si va a pedali o a patti. O a pattini. Diciamo con energie proprie, ecco, senza sfruttare sì, petrolio. Partendo 4 giorni prima. Quindi se non è il 31 maggio, sarà il 27, anzi il 26, da in Piazza Poggi alle ore? Partiamo presto, facciamo le 6 di mattina. Alle 6 di mattina? L'orario Orda. Comodo per tutti. Va bene, quindi 26 maggio, ore... Dai, le 6 è troppo. Mettiamo alle 8. Alle 8. Piazza Poggi. Piazza Poggi. Tutto dopo il 25 aprile. Dopo il 25 aprile c'è una rumba, fra l'altro. No, perché si sta parlando di maggio, in verità. No, 26 maggio. 26 no, ma maggio... giustamente Gringo cosa diceva? Partiamo un mese. Ah, un mese prima, ok. Con tempo fa. Ce la potrei fare. Ok. Allora, gli appuntamenti a questo punto sono due. Uno è, si è detto, il 26 maggio alle ore 8 in Piazza Poggi, pronti con le biciclette per andare alla Cimona a Roma, che poi inizia ufficialmente il 31 e si dilunga fino al 2 di giugno. E poi l'altro appuntamento che abbiamo lanciato è un viaggio nei Balcani. Questo sì che è serio. Che avverrà ad agosto, poi magari all'ultimo momento diciamo. Tutti così questi viaggi li diciamo, però poi all'ultimo momento bidone. Allora, l'intenzione era quella di andare, per chi si è ascoltato lo scorso podcast, che era un urlo dei pedali, in verità, non ti ho fatto i complimenti. Un misto fra è stata una bella puntata. Un misto fra l'urlo dei Balcani, è una trasmissione di Radio Wombat che parla dei Balcani per l'appunto, e il Puntare Pedale, che è una trasmissione di Wombat che parla di cazzate. Unendo queste due cose è venuto fuori l'idea di andare a fare un bel viaggio nei Balcani. Esattamente, l'intenzione era quella di andare in Serbia al Guzza Festival. Quindi c'è da attraversare, da passare dalla Croazia, c'è da attraversare la Bosnia, Sarajevo, e per poi arrivare in Serbia. Tutto questo naturalmente in vista del festival, che inizia l'8 agosto, e quindi bisognerà partire anche lì un po' prima. Io ti consiglio il 1 agosto di partire. Però, esatto, il 1 agosto, quindi... caldissimo, forse partenza troppo caldo. Partenza intelligente, il 1 agosto. Allora, l'idea è quella di andare fondamentalmente ad Ancona in qualche modo, poi prendere una nave, arrivare a Spalato e poi da Spalato intraprendere la strada per il cuore dei Balcani. Tutto questo naturalmente è da organizzare insieme a noi, insieme a voi, ascoltatrici e ascoltatori. quindi qualsiasi suggerimento è ben accetto. Stiamo cercando un modo per dare un senso a tutto questo viaggio. E come potremmo fare, Denver Grigo? Io fossi in te lancerei una pagina Facebook. Una pagina Facebook? Ma sì, sì. Guarda, io sono molto restio alle pagine allora, Facebook. Allora, una mailing list. Sì, esatto. Essere. Scrivete qualsiasi suggerimento o qualsiasi... gruppo WhatsApp. Un'adesione, potete scrivere alla, a Radio Wombat su posta Wombat, chiocciola in Siberia. .net. Evitiamo. Però la cambierei chiocciola in Serbia.net. In Serbia.net, fondamentalmente. Che se la gente si spaventa, no? Però non è che poi noi possiamo fare come Controradio che fa questi viaggi. Che ci fa il busco. Che ci fa il busco per questi viaggi un po' turistificati, mettiamolo così, un po' da turisti standard. Noi cerchiamo di fare qualcosa di un po' più particolare. La maca ce l'ho. Sì, la maca ce l'hai, esatto. Sì. Quindi. È un gadget direi indispensabile per questo tipo di viaggio. Qualsiasi bicicletta va bene, dalla Graziella allo scatto fisso. Però cerchiamo allo scatto fisso. Scatto fisso sulle montagne della Bosnia, te lo voglio vedere. Non ci sono premi in palio, solamente per la soddisfazione di arrivare in un posto, magari arrivarci insieme ad altre persone. Magari arrivarci vivo. E cercheremo anche nel frattempo di dare un senso, ecco, se Radio Wombat è in punta di pedali, sono attività che nascono e si svolgono all'interno di determinati spazi, che sono quelli sociali. Cercheremo di, anche attraverso questo viaggio, di fare un percorso che tocchi un determinato tipo di luoghi, un determinato tipo di ambienti. E per poi magari condividerli con chi viaggia con noi, ma magari anche con chi ci ascolterà in futuro, o chi incontreremo, e chiunque. Poi arriviamo al Guzza e ci sbronziamo. Top. Questo è il programma. E tornare indietro? Boh, non lo so, vediamo. Tornare indietro? Vabbè, si torna a sbronzi, quindi non è mai un problema, no? Quindi agosto? Agosto? No, o settembre? Forse agosto è caldissimo per fare una cosa così. Sì, che fai? Fai spostare il Guzza Festival? Vabbè, evitiamo il Guzza Festival, andiamo a farci un giro e basta. Ah, senti, io sento molto il fascino dei Balcani, quindi e soprattutto uno dei primi libri di viaggi in bicicletta che ho letto attraversava proprio i Balcani, partendo da Trieste arrivavano a Istanbul. Borda. Che era il libro di Paolo Rumiz, Tre uomini in bicicletta. Ecco. Ed è effettivamente, se si legge il libro, sono dei posti spettacolari. E noi facciamo tre marcioni in bicicletta. Tre marcioni, sì. Gringo lo vedo abbastanza marcio anche lui. Esatto. Gringo c'ha la faccia da Graziella, io te lo dico. Io vi stupirò. Dai. L'ultima volta che ho visto Gringo fare una salita ho avuto paura per la sua, per il suo cuore. Bene, a parte le divagazioni, cos'altro abbiamo in quest'oggi? Ci tocca interrogare i nostri roller. Dai. Perché li abbiamo invitati, ora ci tocca farli parlare. Buono. Dai. Ma spariamo un pezzaccio prima? Ma sì, dai, facciamo un pezzaccio e abbiamo parlato tanto. Vai. Vai. E poi torniamo con i roller, le ultime battute. A Santa Graziella. Grande. Never knew the softness of his tender kiss. Don't know if he's weak or strong. All I know is he's never dreamed my dream. Oh, not alone. Never heard him speak a single word of love. Never knew his favorite song. Because he only speaks to me in dreams I dream. Oh, tells me he's in love with me, and how much he needs me to be near. But at best a dream is just a fantasy. If I touch his hand, he'll disappear. No, no, no, no, no. No. Now, I don't need a love that's just a memory. Fate, how could you be so wrong? Now I've got to find a man who's haunting me. All night long. Softness of his tender kiss. Don't know if he's weak or strong. E con questa... Oh, va pure a sfumare. Eh sì, va pure a sfumare. Sono bello, molto bello. Rilassato. Ci stai in un pomeriggio di pioggia. Oggi anche qui a Firenze piove, strano. Eh? Anche qui a Firenze. Procuratevi un tabarro. Che tabarro? Voglio il tabarro, mi hai fatto venire nel voglia dubbio. Del tabarro. Chissà se col tabarro mi passa la bronchite. Forse sì. Sicuramente non mi sarebbe venuto. Probabilmente sì. Ti viene il catarro, ma ti passa la bronchite. Non mi sarebbe venuta? Chiedo correzioni all'Accademica della Crusca. Arriva il medico, sì. No, non le sarebbe venuta. Anzi, io le prescriverei un tabarro per la cimona. Mattina e sera. Bah, la cimona in tabarro. Pieno. Sai come stai bene in tabarro con alla cimona? Ti ci vedo. Gringo, ma che fai? Vieni alla Cimona tu. Se si va in bici, sì. Se si va in Graziella, sì, dice. Ah, allora se si va in tabarro, vieni. Se si va in tabarro. Sì, in Graziella, in tabarrato. In tabarrato, ben bene. 300 km in tabarrato. Ci dai un gallo cedrone al quale togli la coda e fai per fare un cappello. Esatto, manca quello, devo procurare. Vabbè, da qui a giugno ce la facciamo. Allora, i nostri rollers. I nostri rollers, sono qua. Dunque. Voi siete già venuti a in punta di pedali. Sì, la nostra seconda volta a Radio Wombat. Non sarà l'ultima. Anzi, come stiamo dicendo a tutti gli ospiti, fondamentalmente dovete venire a fare una trasmissione fra un po'. Sarete inglobati nella tana del sì, Wombat. Sì, vogliamo tutte le storie, tutti i trick, tutto quello che c'è il dietro. Il gossip dei trick. Il sì, gossip dei rollers. Sì, sì. La trasmissione diventerà nostra, ce la prenderemo. Sappiamo. Tutta vostra. Anche da domani, se volete. Grazie. Bene, innanzitutto, allora, si è detto che è già la seconda volta. Cosa è cambiato dall'ultima volta che ci siamo visti? Cosa è cambiato? Dallo skatepark di Campo di Marte, i vostri amici roller si sposano all'Emerson. Si sposano all'Emerson. Io e lui ci spostiamo all'Emerson. Ovvero, stiamo cercando di rimettere un po' in sesto lo skatepark dell'Emerson, che aveva bisogno di una ripulita. Adesso è stato ripulito, ci sono i nuovi orari di apertura. A proposito, Quali sono? Giovedì dalle 21 alle 23 e la domenica dalle 15 alle 19. Quindi top, adesso bellissimo. Troverete lo skatepark aperto e pulito. Bella storia. Ci si può rotolare per terra. Sì, sì, assolutamente. Tra l'altro è un super skatepark quello dell'Emerson. Sì, è un bellissimo skatepark con delle strutture che facevano parte di un vecchio skatepark di Sesto Fiorentino e strutture che invece sono state autocostruite dai ragazzi del park. Quindi una bomba, noi ne stiamo costruendo delle altre, anzi se c'è qualcuno che ci ascolta interessato alla costruzione di rampe, noi vi aspettiamo il giovedì e la domenica. E adesso è in programma un super evento all'Emerson il 28 aprile, segnatevi anche questo evento. Bellina Brugole. Esatto, dove ci saremo anche io e Domenico per riparare i vostri pattini rotti. Bello, bellissimo. Ebbene, sì. Allora, appunto, precisiamo, all'interno di Brugola e Merletti, che sono due giorni di laboratori presso il CSA Next Emerson in via di Bellagio a Castello. Di autocostruzione, autoproduzione, riparazione. Esatto, quindi all'interno di questi due giorni troverete un po' di tutto e alcune cose saranno legate appunto ai pattini, il vostro laboratorio, altre alla bicicletta, altre a Radio Wombat, alla bicicletta e magari anche ai pattini, tutti insieme. Fondamentalmente poi ci sarà altri laboratori, immagino, di smanetti vari, informatici, sì, gioielli, tecnici, anche qualche cosa sul Seitan. Sul Seitan? Vi do questo spoiler. Preparazione del Seitan tutti quanti insieme. Allora vengo sicuro. Ci sarà un laboratorio di saldatura, se non mi sbaglio. Ho saputo qualcosa da fare col bambù, se non vo' errato. A parte... sì, ci saranno un sacco di attività. Penso che a breve uscirà l'evento con tutte le informazioni. Ci saranno anche i nostri amici della BMX. Precisiamo. Sì. E dovremmo anche costruire in quell'occasione un carretto Wombat, cioè un qualcosa che ci possa permettere di fare una regia portatile, diciamo così, abbiamo in programma una regia che ci possa permettere di fare le dirette dalla strada, direttamente dai cortei, un qualcosa di molto versatile. In bambù sempre. In bambù. O in Seitan lo facciamo. In bambù e Seitan probabilmente, saldato insieme. Certo, ovviamente. Quindi, ricapitolando, vi portate i pattini rotti, li aggiustiamo, vi fate un giro nel park. Se sopravvivete, un adesivo di Radio Wombat. Cioè decisamente. Premio... Due. Wow. Ben due possiamo azzardare, ben due adesivi di Radio Wombat. Alziamo la posta in gioco qua. Benissimo. Senti, Briccobaldo, siccome io sono un tipo che sta sui social, no? Tu lo sai, io sì, sono sui social. Osacci. E ho visto che qualcuno qui presente ha partecipato a un contest. Ora, un contest. Sì, ci sta un contest. Io volevo fare una precisazione sullo skatepark prima. Ah, dici. Allora, intanto, se non mi sbaglio, è l'unico skatepark al coperto di Firenze. Sì, assolutamente. Giusto? L'unico, poi ripeto, è anche uno skatepark con delle strutture che non si trovano facilmente in altre regioni d'Italia. Ecco, perché? Cioè, che cosa hanno di particolare? Innanzitutto sono delle strutture belle alte, sono delle strutture alte fatte bene, con delle belle strutture, da sicuramente risistemare un pochettino, ma per parlare in termini un po' più tecnici, ci sono un paio di quarter alti, c'è un bank fenomenale infinito, c'è un bank to bank che non si trova da nessuna parte, è molto divertente, che siano pattini, BMX o skate, vi divertite. Ed è gratis soprattutto. Ecco, io ho sentito dire anche che lo skatepark è più grosso della Toscana al coperto. Il più grande della Toscana in realtà è Arezzo. Eccoci, vedi? Allora qua subito andrò a puntualizzare. Al coperto. Vabbè, Arezzo è al coperto ni. Cioè, è sotto un ponte, però okay. E siamo coperti, noi ci arrangiamo come possiamo. Vabbè, giustamente. Però coperto da tutti i lati è l'Emerson. Con una struttura intorno. Ok, quindi nella speciale categoria di skate park coperti da tutti i lati vince l'Emerson, quantomeno in Toscana. Allora andrò a puntualizzare questa cosa agli amici dell'Emerson che mi hanno detto: ah, noi ci abbiamo. Ah, ma dai, avete il più grande. Ora glielo dovrò appuntare questa cosa. Mentre, dove si è tenuto questo contest e che cos'è un contest di rollerblades? Allora, questo contest si è tenuto a Sarzana, nello skatepark di Sarzana, appunto. E da tutti i lati coperto questo. È coperto da tutti i lati. Un pochino più grande dell'Emerson, con delle strutture in cemento. Ragazzi, andate a visitare questo skatepark. Anche perché... ti fa male? Sì. Ma ti fai male anche sul legno, eh? Ah. La particolarità di questo skatepark di Sarzana è che c'è una full pipe. Ah, la full pipe. È la cara full pipe che conoscerete sicuramente tutti. Ovvero una un half pipe. Quindi parliamo di una rampa chiusa. Quindi una rampa circolare, nella quale ci si può far male, fondamentalmente. È quella tipo che... quella di Hasty Clown. Un tubo. È un tubo. Un tubo. Cioè, immaginate di prendere un tubo di quelli mezzo tubo. Di Super tubo. Mario. Ok. Okay. Giratelo in orizzontale. Ah. E fate. Beh, puoi fare il sottosopra. È un tubo enorme, fondamentalmente. Poi credo che non ci sia nessuno, probabilmente, qui boh, in Toscana che possa fare una cosa del genere. Credo, poi. Il sottosopra. Chi vuole provarci potrebbe vincere il primato. Beh, devi andare velocissimo per farlo tutto, fondamentalmente. Tre adesivi di Radio Womba. Tre adesivi di Radio Womba. Ti impalio. Perché, però, magari se poi vi spaccate il collo, uno ve lo diamo comunque. Per rattoppare il collo. Per sentirci un po' la scienza a posto. Esatto. Bene, bene. Va bene, a parte la full pipe, che non è propriamente facile da fare, io non l'ho fatto, il contest è stato diviso in categoria maschile e categoria femminile, come tutti i contest che si fanno di blading in Italia. Il contest è fatto in batterie, quindi si gareggia 4 persone per volta, più o meno. Si gira, si fanno le qualificazioni, se ti qualifichi vai in finale, se vai in finale ovviamente puoi vincere e salire sul podio. Io e Domenico abbiamo partecipato, Domenico è arrivato ultimo, a parte chiusa parentesi. Allora, no, non sono arrivato ultimo, ma ultimo. Non mi sono qualificato, quindi non si sa... Cioè, effettivamente, non ti sei qualificato. Potrebbe anche essere non ti venuto, sei voluto qualificare perché non volevi, diciamo, non volevi sfigurare gli altri. Esatto. E qui siamo noi. E niente, si fanno i trick, quindi i trick, ricordiamo, sono le evoluzioni che si possono fare su pattini, BMX, skate, questi si chiamano trick. E viene premiato anche il best trick, quindi non solo si può vincere, quindi per tutte le evoluzioni che si fanno, il migliore vince, eccetera, eccetera, ma c'è anche il vincitore del best trick. E quindi chi fa l'evoluzione, per parlare un po' più così, migliore, vince un bel premio. Bello. Bella storia. Bella storia. Bella storia. Bene. E quindi tu hai vinto? E io ho vinto il terzo posto, ragazzi. Ah, sapevo. Non il da primo. Come parlava sembrava essere vero. Terzo posto, girls. No, pure girls, vedi, girls. Non è nemmeno assoluto. Man. E speriamo tra l'altro di organizzarne presto uno anche all'Emerson, perché noi pattinatori stiamo cercando di organizzare questa cosa e vi terremo aggiornati. Domenico, magari veniamo proprio. Ti qualifichi tu stavolta? Allora, stavolta farò, ci sto pensando. Tu, se ci vuoi degnare della tua presenza, lo sai, no? Se no, noi sappiamo che tu sei un campione a priori, no? Sì, ma se poi mi dava fastidio, insomma, tutte le persone ci rimanevano male, quindi facciamoli giocare un po'. Non lo so, ci penso. E inoltre, tra l'altro, guardate la combinazione. Caso. C'è la Ciemona a Roma. Esatto. No? È il prossimo contest, fighissimo, è a Roma, il 15 giugno. Quindi si rimane lì. Quindi se per caso qualcuno rimane lì ubriaco, ancora non in grado di tornare dalla Cemona, magari picco. Fate un salto al contest. Due settimane lo guardate. Si può venire a fare il tifo? Ah certo, sì, è aperto a tutti. Tipo coi tamburi, le bandiere. Dovete venire a fare il tifo. Oh, questo è interessante. Comunque io vi do una cosa, mi avete convinto a comprarmi un paio di fatti. Grande Briccobaldo! Abbiamo Briccobaldo! Devo venire al CTO poi, capito? Cioè, si fa la puntata al CTO. Facciamo che mi compro anche un caschetto insieme. Ok. Potrebbe essere. Vedo l'ora di vederti ginocchiere in palco. Ginocchiere e gomitiera. Ginocchiere, come se poi mi sento un po' Robocop, non lo so se ci arrivo tanto. Però, va bene. Però sì, guarda, ma più per un utilizzo urbano che per trick, track e troc. Per un utilizzo urbano. È comunque un'ottima, un'ottima scelta. Ecco, cosa devo, devo scegliere qualcosa di particolare per una città come Firenze? Per Firenze sicuramente vanno scelte delle ruote un po' più grandi del normale, quindi invece delle classiche ruote da 80 mm, ruote da 100-110 mm. E poi niente, solo un telaio in alluminio e protezioni, perché Firenze inganna col suo San Pietrino e soprattutto all'inizio protezioni. Ebbene, okay. Protezioni vuol dire casco? Protezioni vuol dire casco, vuol dire ginocchiere, gomitiere e polsiere. Bardiamoci per bene. Allora, sì, tu pure il collarino, dai. E anche un collarino. Sei già pronto. Mi porto anche un defibrillatore, diciamo, sulle spalle, cosa devo fare oltre? Anche oltre, cioè, poi c'è una protezione che è proprio per i più timorosi, c'è cioè il pantaloncino. Esagerati. Che imbottito. Ha le protezioni imbottito. Vabbè, però quelle per evitare le culate. Culate. Ah, ok. Culate. Dai. Poi, senti, la culata secondo me non è una cazzata il pantaloncino imbottito. Non si casca in avanti, no, si casca anche indietro. Più indietro. Più indietro, molto addirittura. Più indietro che Ok, allora cerchi di evitare di cadere in avanti, perché se cadi in avanti ti saltano i denti. Vabbè, metto le mani però in avanti. Meglio atterrare di culo che atterrare di denti. Va bene, ok, va bene. Ti abbiamo spaventato abbastanza. Tra culo e denti, il culo è più importante. Ma va salvaguardato perché... Perché è importante? Bene, se ne sparate di cazzate. Dai, e che si fa? Si chiude? Si chiude, salutiamo i nostri cari amici che sono venuti a trovarci. Sì, verissimo. E non perdetevi, fra poco abbiamo l'Accademia della Brusca sulle frequenze del Wombat e, se non mi sbaglio, anche 8 Hz. Wow. Gringo, a te la parola per la chiusura. Vado. Vai. Cosa ci mandi? Cosa ci metti? Mando un bel pezzaccio. Wow. Allora ci rilassiamo. E dai, ci sentiamo fra due settimane. Ah, fra due settimane. Yeah. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. I hope you like a diamond too.